cercando un punto di equilibrio che ovviamente non poteva trovare. Dopo un ultimo vano sforzo, cadde di lato e sparì nell'erba. I due rimasero così, la bocca di lui ancora aperta, la mano di lei a chiuderla, come per proteggerla. Difficile capire cosa passò per la testa di quei due, ma qualsiasi cosa fosse, era la stessa cosa. Poi lei sorrise. «Ora vado», disse. E se ne andò. Aprile 2020. Agenzia X presenta Maratona di lettura su Radio Virus, trasmissione del testo integrale con 55 lettrici e lettori di La carezza e la mitraglia, romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini, la storia di una ragazza che diventa cecchino in un gruppo di assalto partigiano. Audiolibro musicato in 5 puntate da martedì 21 al 25 aprile su Radio Virus a partire dalle 21 del 21 aprile. Buon ascolto. We'll be right back.